Sabato noi siamo scese in piazza, è stata una grandissima manifestazione molto partecipata perché abbiamo voluto ribadire, far vedere alla Regione Piemonte che su questo tema non si passa senza parlare con le donne, che sono le donne a dover decidere sui loro corpi e che è inammissibile che a livello regionale si possa pensare di restringere un'opportunità che in questo momento è arrivata a livello nazionale. Cioè finalmente dopo tantissimi anni e sicuramente anche grazie al frutto di moltissime battaglie portate avanti non solo da Non Una di Meno ma anche appunto dalla rete IRE, da tutte le ginecologhe, le mediche che lottano da anni su questo tema, finalmente c'è stato un adeguamento alle normative, alle direttive europee per consentire la somministrazione dell'RU486, la pillola abortiva, direttamente in consultorio, o perlomeno di non prescrivere sicuramente il ricovero in ospedale ma di permettere ai medici di valutare per esempio altre forme come il day hospital per somministrare appunto la pillola abortiva. A livello regionale invece la regione ha deciso di limitare questo accesso e ha diramato, sta per diramare una circolare nella quale chiede da una parte che questo non sia possibile, impone ai presidi ospedalieri di ricoverare le donne che vogliono interrompere volontariamente la gravidanza tramite la pillola farmacologica, e dall'altra, cosa altrettanto grave, ha deciso di aprire delle convenzioni con i movimenti pro vita, che poi non sarebbero altro che le associazioni antiabortiste cattoliche all'interno dei presidi ospedalieri. Tutto questo in uno scenario che anche in Piemonte vede, insomma, una seconda ondata della pandemia piuttosto forte, quindi insomma anche le strutture sanitarie sono impegnate in altro, diciamo. Certo, infatti è ancora più grave in questo momento obbligare le donne a recarsi in ospedale, che sicuramente è un posto dove ci si espone al rischio di contagio per forza di cose, per una pratica che in realtà non richiederebbe la somministrazione ospedaliera. Cioè, noi potremmo prendere la pillola abortiva nei consultori senza doverci recare in ospedale, invece ci viene imposto di farlo. Ovviamente è gravissimo, è una dinamica, non so, quasi punitiva per le donne che ricorrono a un'interruzione volontaria di gravidanza. Secondo Repubblica Torino, la vostra manifestazione ha sottolineato alcune divergenze all'interno della maggioranza regionale, con la Lega che prenderebbe un po' le distanze da Fratelli d'Italia, che invece spingeva per questa circolare. Ma su questo vedremo. Di sicuro il dato positivo è che facciamo paura, che siamo tante, che siamo scese in piazza, abbiamo fatto una manifestazione grossa e potentissima, e quindi immediatamente la maggioranza leghista che abbiamo in Piemonte ha subito preso qualche distanza, perché invece tutto subito Marrone si aveva molto attaccate dicendo che alle femministe non importa della salute delle donne, vabbè, e non so neanche a commentarlo, e quindi evidentemente invece la Lega ha ritenuto di voler prendere qualche distanza. Vedremo se poi lo farà nei fatti, però, perché fino a pochi giorni prima Cirio comunque sosteneva Marrone in questa iniziativa. Sappiamo che uno dei problemi per avere accesso all'interruzione volontaria di gravidanza in tutta Italia è la questione dell'obiezione di coscienza. In Piemonte come siete messi? Allora, su Torino la situazione è molto variegata, nel senso che dipende tantissimo dalle ASL. Abbiamo delle ASL in cui il tasso di obiezione è molto basso, sul 20%, e invece ASL in cui è altissimo, è supera l'85%. Sul resto della regione la situazione però invece è drammatica, perché ci sono interi ospedali in cui non c'è neanche un medico che pratichi interruzioni volontarie di gravidanza, e abbiamo delle situazioni pazzesche, per esempio ad Alessandria, dove c'è un medico solo, a Novara sono in due e a Cuneo tre a praticare aborti. Per quanto riguarda invece l'aborto farmacologico, voi chiedete che la regione Piemonte rispetti quelle che sono le direttive ministeriali alla fine? Sì, da una parte di sicuro noi ci batteremo per l'applicazione di queste linee guida ministeriali, dall'altra certamente le battaglie che Non Una di Meno porta avanti da tempo chiedono molto più delle garanzie della 194 e delle linee guida nazionali, perché intanto noi vorremmo che l'obiezione di coscienza non ci fosse, ovviamente negli ospedali pubblici dovrebbe essere garantito l'aborto in modo sicuro, in modo libero, senza giudizio o moralizzazioni sulle scelte che prendiamo per noi stesse, e ovviamente per fare tutto questo dovremmo avere dei consultori che funzionano sul territorio, che siano laici, che siano femministi e che aiutino le donne a portare avanti queste decisioni. Dovremmo avere dei consultori che distribuiscono contraccezione gratuitamente, dovremmo avere degli spazi diversi per discutere di salute, di sessualità, di contraccezione, certo. Tanto più di quello che è la semplice applicazione della 194.